Vieni, vieni fra queste braccia, amor, delizia e vita. Vieni, non mi sarai rapita finché ti stringo al cor. Ad ogni istante ansante ti chiamo e te sol bramo. Vieni, vien te il ripeto, io t'amo. T'amo d'immenso amore, si te il ripeto, si te il ripeto.